Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, per una trasmissione che sta in bilico tra il politicamente corretto e la voglia di censura. Questo è un tema di cui molto oggi si parla e noi lo faremo con addetti ai lavori proprio dell'editoria per ragazzi. Fuori la polemica sul politicamente corretto dopo che la casa editrice che edita i libri di Roald Dahl, quello della fabbrica cioccolata, ha deciso di censurare la parola obesi perché è offensiva per i ragazzi che hanno qualche chilo di troppo. È giusto o non è giusto in qualche modo cambiare i lavori del passato rispetto all'etica contemporanea? La casa editrice, dopo le polemiche, ha forse peggiorato la sua situazione proponendo sia la versione purgata che quella originale. Allora, per capire di più qual è il delicato equilibrio tra politicamente corretto e censura, abbiamo sguinzagliato la nostra Simona Sagone di Jucali nel libro per ragazzi di Bologna, la Fiera del Libro Internazionale, con diversi pareri di te lavori tra illustratori, case editrici e scrittori, cominciando con Elisa Sabatinelli, che è una scrittrice che ha lavorato anche su due testi per ragazzi, e sentiamo appunto cosa ne pensa di questa vicenda a partire dalla fabbrica di cioccolata di Roald Dahl. Uno dei temi della fiera di quest'anno è la censura. Cosa ne pensi della censura che è stata operata sui libri di Roald Dahl, di cui si è parlato tanto in questi giorni? In generale, cosa ne pensi della censura che tanti editori operano sulle parole difficili? È come tagliare degli... mi viene in mente un autore a cui tagliare tanti arti e poi non rimane più niente, no? La censura è stato uno scandalo, ma nel senso, come si fa a diluire, no, le parole, a renderle piatte, mi viene da dire, no? Perché è tutto lì lo stile di un autore. Se uno interviene sul linguaggio, che è comunque lo stile principale di un autore, diventiamo tutti uguali, diventiamo tutti delle scatole. È una censura al contrario quella che è stata fatta a Roald Dahl. Sembra scandaloso, assolutamente contraria. Nonostante l'impegno di tante case editrici per la fascia anche dei ragazzi e ragazze, dei giovani adulti, la fascia d'età che legge di più è quella della primaria. E poi si ha una piccola flessione nella fascia delle medie, un calo ancora con le superiori. Secondo te perché questo avviene? E come si può contrastare dal punto di vista di chi scrive storie e le pubblica? Forse sicuramente mi viene da pensare coincide con l'uso del cellulare e quindi con con uno strumento che distrae, no? più che aiuta. L'aiuto che può, oppure un autore come si incanala con storie vicine a quello che succede, che può succedere ai ragazzi, ecco. E mi vede dire, la primaria è una fascia che legge tanto, i lettori sono tanto forti, e un lettore che però si forma forte poi è un lettore per tutta la vita. Di Coccole Books, Daniela Valente, uno dei temi centrali della Fiera 2023 è la censura. Cosa ne pensi dell'episodio di censura sui libri di Roald Dahl? In generale, cosa pensi della censura che tanti operano, magari non la vostra casa editrice, sulle parole difficili? Ma no, non siamo d'accordo con la censura come parola in assoluto, cioè non ci piace. L'episodio sui libri di Roald Dahl mi dà l'occasione per raccontare, esprimere quello che è il mio parere a proposito. Io penso che la censura sui libri per bambini sia frutto di un grandissimo equivoco. si pensa, l'opinione comune, che i libri per ragazzi debbano insegnare qualcosa e che quindi quando diventano sovversivi, irriverenti, ironici e che fanno in qualche modo, usano il paradosso per raccontare una parte di mondo, allora debbano essere in qualche modo corretti. Non mi piace parlare di censura. Questo è l'equivoco più grande. I libri per bambini, i libri per ragazzi, i libri in genere non devono insegnare un bel niente. I libri devono raccontare storie e le storie devono essere e possono essere diversissime. Possono essere tristi, allegre, paradossali, possono essere tutto quello che può essere una storia. Quindi è qui l'equivoco. I libri servono per crescere e non servono per imparare. Non sono ricette, non sono medicine, non sono rimedi per. Guglia Risari, uno dei temi centrali della Fiera 2023 è la censura. Cosa ne pensi dell'episodio di censura sui libri di Roald Dahl? In generale, cosa pensi della censura praticata da anni dagli editori sulle parole difficili? Cosa ne posso pensare? Censurare è un sinonimo di avere paura, di non volersi confrontare con quello che ci interroga in maniera più profonda. L'episodio legato alla rivisitazione delle opere di Roald Dahl è una violazione del diritto d'autore. Quando l'autore firma un contratto su un testo approvato, nessuno dovrebbe avere il diritto, dopo la firma di questo contratto, di cambiare una virgola. Quindi siamo nell'ambito non solo del timore, ma anche della violazione del diritto d'autore. In generale sulle parole difficili? Le parole difficili sono difficili solo per chi le considera tali. In realtà ho visto bambini e ragazzi parlarmi di infinito, parlarmi di adulterio, parlarmi di isolamento, di alienazione, quindi non so cosa siano veramente le parole difficili. Agosto snob, il più moscioso e stupido. Agosto snob, ma bacio il dile, così ciccione ed infantile. Sarà un bel lancio da manuale, un gran risucchio verticale. Nemmeno un graffio né un dolore. Agosto snob non soffrirà, Agosto snob non soffrirà. Girando lente lo schiacceranno come un carro. Lo bolliremo ancora un po', pestando fino all'ultimo, pregando Dio mattino e sera. Ogni miracolo si avvera, questo miracolo si avvera. È un doscerino fastidioso, a tutti amato e riverito, che non susce. Simona Sagone di Jucali, all'interno del Salone del Libro per Ragazzi di Bologna, due pareri sull'argomento. Il primo è Anselmo Roveda, dal 2008 coordinatore redazionale della rivista Andersen, testata sulla quale scrive dal 99, direttore della rassegna letteraria internazionale Cabirda, collabora ad altri periodici scrivendo prevalentemente libri e cultura, è anche direttore responsabile di un periodico nato nelle carceri genovesi. A seguire il parere di Arianna Papini, che scrive e illustra un centinaio di libri per tantissime case editrici, con i quali ha poi vinto numerosi premi, tra cui il premio Andersen e il premio Compostela. Alcuni dei suoi libri sono coediti in Francia, Spagna, Inghilterra, in Grecia, in Portogallo e a Taiwan. Anselmo Roveda, Fiera 2023, uno dei temi centrali è la censura. Cosa pensi dell'episodio di censura sui libri di Roald Dahl e in generale cosa pensi della censura operata da anni da alcuni editori sulle parole difficili? Ah, difficile parlare di parole difficili, perché in realtà le parole difficili sono difficili finché non si usano o si percepiscono difficili. Le parole difficili ci servono o diciamo che mettono in criticità alcuni elementi come un senso ad esempio del pudore o una altra dimensione. Ecco, io penso che tutte le parole possano essere utilizzate e disposte in una narrazione secondo quella attenzione e la sensibilità della narrazione. Non è la singola parola o la singola affermazione, ma è il contenitore narrativo che determina eventualmente delle qualità negativo della narrazione stessa. La censura ha poco senso e poco utile, nel senso che l'opera degli autori, di qualsiasi autore, è fotografia del suo sentire, del suo tempo, delle sue sensibilità, e mai ci immagineremmo di togliere alcune parole perché non corrispondenti alla sensibilità contemporanea da un grande autore della letteratura italiana del Novecento. Non penseremo mai di sostituire un'aggettivazione che perteniamo, insomma, non coerente con le sensibilità del nostro tempo. Gli autori sono specchio del loro tempo. La fiaba, il mito ci insegnano che appunto la rappresentazione delle più terribili violenze e sopraffazioni in realtà serve proprio anche per riflettere intorno a quelle, ma ben ci guarderemo dallo smacchiare il sangue da tutti i miti. Arianna Papini, altro tema centrale della Fiera 2023, la censura. Cosa ne pensi dell'episodio di censura sui libri di Roald Dahl? In generale, cosa pensi della censura operata da anni da alcuni editori sulle parole difficili? È gravissimo quello che è successo. È gravissimo. Io posso fare anche 25 nuove immagini, nuove illustrazioni per un libro, ma non mi chiedete di togliere una parola. Io non ho fatto uscire dei libri perché editori mi hanno chiesto di togliere una parola e non c'era un sinonimo di quella parola, aveva un senso profondo. Io trovo che questa paura delle parole sia lo specchio di una società malata. Le parole sono fondamentali e la libertà di dirle. Un libro si può non comprare, cioè il libro è libero, non per nulla nei totalitarismi bruciano i libri, bruciano l'arte, distruggono l'architettura, cioè tutta l'espressione, si vieta il teatro, si vieta di vestirsi in un certo modo. Io trovo gravissima questa cosa e alcune operazioni che stanno facendo editori italiani, ho visto Camelo Zampa che sta lavorando sui testi integrali delle fiabe classiche, ben vengano queste operazioni. Poi uno può decidere di non leggere un pezzo, le fiabe classiche sono terribili. Ecco, io trovo che questa censura sia proprio lo specchio di una società malata, che ha paura delle cose sbagliate. Qui passano i trolley mentre si parla, che ha paura delle società sbagliate, cioè ha paura delle cose sbagliate, è una società che invece di aver paura della guerra, ha paura delle parole. È grave, molto grave. Ultima domanda, nonostante l'impegno dell'editoria per la fascia dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani adulti, la fascia d'età che legge di più è quella della primaria, poi c'è una piccola flessione età delle medie e picchiata alle superiori. Perché questo avviene e come si contrasta? Questo a mio parere avviene perché si obbligano i bambini e i ragazzi a leggere. Allora, a me, se mi obbligassero a leggere un romanzo che io non scelgo, smetterei di leggere. Quindi io dico, diamo i libri ai bambini, diamo i libri ai ragazzi, ma lasciamoli liberi di non leggerli. Questa è la mia teoria. faccio corsi di aggiornamento per gli insegnanti, lavoro molto su questo. L'altra cosa, non dare un'età ai libri, perché ci sono tanti problemi, dislessia, disgrafia, eccetera. Allora, se tu scrivi che un albo è adatto solo per i 3 anni e un ragazzo riesce a leggerlo, si sente umiliato. Quell'albo è trasversale, affronta temi che possono essere lavorati insieme adulto e bambino, almeno i miei libri sono così, non hanno un'età, perché credono in un libro come ponte di comunicazione sui temi difficili. Quindi non mettere l'età e non obbligare i ragazzi a leggere, e ci troveremo dei lettori appassionati, credo. Io li sceglievo da me i libri a casa mia, ero molto fortunata. E su questo è importante, cioè lasciare liberi i bambini. Io vedo dei genitori che dicono no, questo non lo puoi prendere. Lo vedo in libreria, le bazzi con le librerie, le biblioteche. Allora, fateglielo prendere quel libro. Non succede niente, le parole non hanno mai ucciso nessuno. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare, chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia. Io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. La censura di oggi, la censura di ieri, un caso emblematico, quello del male, di cui solo oggi una copertina, basterebbe una forse, per portarti al 41 bis. Pino Zacca e la sua banda furono protagonisti di quell'epoca. Sentiamoli. Dopo alcuni mesi di fatiche, brindisi ma anche denunce, il giornale satirico Il Sale chiude improvvisamente. Allora a Roma, a Campo dei Fiori, in trattoria, Pino Zacca annuncia agli altri ragazzi della redazione: «L'editore mi vuol far fuori, ma voi dovete restare». Tutta la redazione però non ha dubbi. Il giornale ce lo facciamo noi. Dal Sale quindi nasce Il Male. Pino Zacca allora non è solo il direttore venuto da creare in cachet il giornale prestigioso francese, in qualche modo eredite del famoso Arachiri 60 tardo, ma è la guida al tale Scout che inaugura una nuova stagione della satira italiana e una nuova nouvelle vague di vignettisti italiani. E per ricostruire infine un passaggio così importante nella satira italiana, sempre prendendo spunto dai Fiori del Male di Massimo Denaro, alcuni commenti, alcune battute, cominciando dallo stesso Pino Zacca che ricorda l'ostracismo a colpi di denunce e di censure che Il Sale registrava. E quindi Vincino, Pincino che parla della reazione della redazione di fronte alla chiusura del sale, e quindi Vauro prima e Riccardo Mannelli poi che parlano dell'arte di Pino Zac, e infine lo stesso Zac che in qualche modo descrive il suo modo di concepire la vignetta contro. Dunque, un giornale di satira politica che si chiama Il Quaderno del Sale è stato sequestrato per ordine del Procuratore della Repubblica di Bari. È un giornale di satira politica che conosco benissimo perché io ne sono il direttore editoriale, quindi è stato sequestrato, uno immagina per vilipendio, oltraggio, queste cose, sa, la satira politica com'è? No. È stato sequestrato per oscenità, ecco. Io vorrei chiedere al Procuratore della Repubblica di Bari, spero che mi stia a sentire, ecco, che cos'è che considera osceno? La satira o la politica? Il male nasce così, per un editore scemo che voleva levare Pino Zac da direttore. E perché? Poi Pino Zac si trova ad avere io, Vauro, Jacopo, Mannelli e altri che eravamo del movimento di quel momento là, per cui eravamo giovani all'attacco del mondo, pronti a tutto, non eravamo legati, cioè non ce ne importava niente, anche se l'editore ci poteva dare stipendi, noi ci poteva il piacere, il divertimento di raccontare in diretta, noi padroni del nostro strumento di racconto. Dove c'è arte non c'è bestemmia, a volte ci vuole un po' a capirlo, anch'io ci misi a quel tempo un po' a capirlo perché mi impattava, poi capii che il valore di quel disegno lì stava nella sua bellezza e nella sua capacità di impattare. E lì la differenza, no? L'impatto della bellezza è un impatto rivoluzionario in qualche maniera, no? Ma forse non solo in qualche maniera. Quello proponeva il Papa col cazzo di fuori, capito? Andreotti che si incuraggia, ma non a livello metaforico, con giri di parole, cioè, Andreotti che tra, capito? Papà, che punto, cioè, tutti avevano un po' di mal di stomaco, un po' di cose, eccetera, eccetera. Fatto sta che cominciarono già lì le prime polemiche su questo famoso questioni di buon gusto, no? Cioè questa espressione antica e fuori tempo proprio già all'epoca, no? In quel momento era liberatorio il fatto di poter usare certi vocaboli, certe immagini dirette, cioè era molto più efficace che non l'approccio, diciamo, più corretto, capisci? Hai parlato di interpretare in maniera giusta la situazione politica, non mi direi che tu credi all'obiettività dell'interpretazione, tu interpreti la tua opinione e basta, allora questa tua opinione difendila più violentemente, tu su questo balletto, su questo valzer non sei d'accordo e ti frega perché aspetti che qualcuno dica qualcosa, mena subito e mena per primo possibilmente. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.